Con l'aiuto del Signore cominciamo questo nuovo incontro biblico. Tutto a posto, vediamo tutto quanto. Allora, ci siamo fermati la volta scorsa, abbiamo introdotto il libro dell'ora, abbiamo cominciato un pochino a vederlo. Rivediamo qui la sintesi. Quindi, nel libro dell'ora Gesù manifesta la sua gloria nella passione, morte di croce e risurrezione. La volta scorsa abbiamo introdotto l'ultima cena e siamo riusciti dopo a fare qualcosa. Adesso stasera cominceremo a vedere un lunghissimo discorso di addio che vada dopo l'ultima cena fino a tutto il capitolo 17. Vediamo se riusciamo a completarlo. E dopodiché c'è la passione, dall'arresto di Gesù alla morte e sepoltura nel capitolo 18-19. La risurrezione al capitolo 20, le donne al sepolcro e la sera di Pasqua. Come poi ricorderete, forse il Vangelo di San Giovanni c'è scritto tra un prologo, che è il primo capitolo, e un epilogo, che è il 21esimo capitolo, con cui si conclude. Nel 21esimo capitolo ci sono ulteriori racconti inerenti alla risurrezione. Allora, saltiamo una slide che la volta scorsa, o meglio rapidissimamente, la andiamo a rivedere. Nel capitolo 13esimo abbiamo visto la lavanda dei piedi la volta scorsa, quindi il gesto che Gesù fece sostituisce nel Vangelo di San Giovanni il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, ed è ovviamente da leggersi in riferimento ad essa. Abbiamo visto il significato del gesto, quindi non è semplicemente un gesto di servizio, ma un porsi al di sotto, ed è funzionale alla ricezione dell'Eucaristia stessa che gli apostoli stavano per ricevere. E poi Gesù, un servo non è più grande del suo padrone, quello che ho fatto io dovete farlo anche voi, lo stile che deve caratterizzare la nostra vita cristiana. Subito dopo c'è stato l'annuncio del tradimento di Giuda, quindi Gesù che si commuove profondamente, quindi l'espressione del suo immenso dolore. Il tradimento, chi non l'ha vissuto se lo può immaginare, auguro a nessuno di voi di averlo mai vissuto. Ecco, il tradimento, qualunque sia la sua veste, è una delle cose più brutte credo che possa succedere nella vita, specialmente quando si tratta di una persona particolarmente vicina e particolarmente cara. E Gesù ha sofferto enormemente di questa cosa, ha dovuto bere tra le altre cose anche questa ulteriore sfaccettatura di dolore, no? Cioè, proviamo a immaginare, era proprio indispensabile che fosse catturata attraverso il tradimento di uno dei suoi, no? Erano pure andata a prendere senza bisogno che uno andasse a vendere, insomma, no? Il Padre ha voluto che per noi soffrisse anche questa cosa allucinante, atroce. Abbiamo anche visto il tentativo estremo di redimere Giuda, no? Quel gesto l'abbiamo visto dell'intingere il boccone nel piatto, lo dico in tutti i canti, come dice Giovedì Santo, no? Quindi è papà, io lo faceva un sacco di volte, mi mettevo un pane dentro il sugo, io ci andavo pazzo, mi dava, è proprio quel gesto, dicono gli esegeti, no? come un papà che sta facendo una gentilezza di quel genere a un bambino, impressionante, insomma, no? E qui poi si aprono anche i misteri, guardate, più giovani miei cari, nella vita, parentesi diciamo così meditativa, di più tempo passa più mi accorgo che di Dio conosciamo poco, ma sapete che conosciamo anche molto poco degli esseri umani, che cosa ci frulla dentro la testa delle persone, veramente poco, a stento se riusciamo forse a focalizzare, e veramente non conosciamo anche tanto bene manco dentro quello, ma quello ci frulla dentro la testa nostra se la vogliamo di proprio tutta quanta, insomma. Io mi ho sempre visto come ha fatto quest'uomo a fare quello che ha fatto nonostante tutti quanti questi gesti, insomma, no? Alcune rivelazioni particolari mi mettono altri dettagli ancora. È un fuori programma, ma nei scritti di Maria Valtorta si vede che la Madonna incontra Giuda, dice, Fede, vieni con me, lui ti perdono, cioè, come si fa? Sono alcuni grandi misteri, mi ho sempre chiesto, cioè, ma come ha fatto quel folle di Lucifero a fare quello che ha fatto? Sapendo benissimo tutte le conseguenze a cui andava incontro, perché questo è il peccato degli angeli, insomma, no? Ma come fa a essere così? Ci sono delle cose completamente, cioè, nella testa mia, che è piccola e limitata, ci stanno poco, insomma, non ci possono stare. E vi assicuro che tante volte, insomma, da sacerdote, da uomo abituato al silenzio riflessivo, vedo tante cose e dico, ma io come sto zitto, insomma. Non capisco, ma pazienza, insomma, no? C'è un passo della Sacra Scrittura, nei salmi ci sono delle schegge, delle perle proprio di sapienza, che dice, un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. È passo da meditare, a mio avviso, proprio con tanta attenzione. Insomma. Comunque, e dopo quel boccone, vedete, Satana entra in Giuda. Perché? Sapete, no? Peccato contro lo Spirito Santo, cioè uno dei peccati contro lo Spirito Santo qual è? Ricordate al Catechismo, l'ostinazione nel peccato. Dio questo lo fa sempre, cioè cerca sempre con l'amore, con la dolcezza, ritrarre l'uomo da. Ma se l'uomo si intestardisce, sapete, le mie preghiere giovanili, vi faccio una confessione, santo Dio, Signore mio, tu non mi devi lasciare libero, tu non ti lasci libero, perché qua combiniamo un sacco di guai, mi fa qualcosa. Non devi fare, cioè, capite, no? Quando uno non è. Ma se c'è una cosa che Dio non farà, è questa. Dio ti parla, ti ama, ti dice le cose con pazienza, con dolcezza e con amore, ma le scelte poi sono sempre le nostre. Ecco, io ormai ho maturato questa convinzione, se c'è una cosa che Dio certamente mai farà è violentarci o scavalcare la nostra libertà. Se a una cosa ci arrivi, bene. E se non ci arrivi, pazienza. Ma io questo l'ho visto anche nella mia esperienza pastorale. Lo dicevo anche stamattina, uno di questi giorni, durante una, forse ieri sera, durante una catechesi. Nelle nostre scelte, noi dobbiamo imparare a riflettere, a pensare e a valutare. Tu non devi mai fare una scelta mosso dall'esterno o dall'autorità di qualcuno. L'ha detto il Papa o l'ha detto il Vescovo, per carità, capite il senso di quello che sto dicendo, no? Oppure l'ha detto quella persona di cui io ho particolarmente fiducia, che ha un certo ascendente su di me. Se la motivazione della mia scelta è solo questa, quella è una scelta farlocca. Perché non è interiorizzata. Se perdo la stima nell'autorità o nell'autorevolezza della persona, quella cosa cadrà insieme alla persona che è caduta. E non è un atto veramente degno dell'uomo, perché un atto veramente. E se tu una cosa ci credi, tu essere pronto a pagarci con la vita. Adesso sono tante questioni, tante problematiche dove ognuno è libero di formarsi le proprie, ma quando si pone una convinzione personale maturata e convinta, la prova di questo è che è in grado di difenderla, di custodirla, di non barattarla, di non svenderla, di non lasciarsi, come dire, ricattare o sottoporre a cose di questo tipo. Se una cosa l'ho maturata, ho preso una scelta, la ritengo giusta in coscienza davanti a Dio, punto. Cambierò se qualcuno, come dire, mi fa riflettere, io ascolto chiunque, dialoghiamo, interloquiamo, parliamo, mi tocca qualche cosa, così fa, così anche se noi ci sbagliamo su qualche cosa, il nostro Signore ci vuole correggere, delicatamente ci farà, prima arriva un input, poi un altro input, una persona che ti parla, un fatto che ti accade, quindi cerca di farti riflettere. Perché il cambiamento di rotta, quindi la conversione, deve essere sempre un atto personale. Vabbè, questo è molto importante, questa è una parentesi, un po' una digressione. Ecco, poi c'è la prima volta in cui Gesù parla di questo comandamento nuovo, no? Adesso andiamo a leggere i testi, no? Anzi, è meglio che switchiamo, così cominciamo un pochino a dargli un'occhiata proprio ai testi. Allora, qui per ora il greco non ci serve, passiamo all'italiano. Allora, Ok, subito dopo il tradimento di Giuda. Vediamo il versetto 31, qui. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato, attenzione, Dio è stato glorificato in lui. Quando Giuda esce ed era notte, adesso cominciamo a salvare il termine glorificare, perché da questo momento in poi nel libro dell'ora compare 5 miliardi di volte. Glorificare compare sotto due aspetti. Gesù darà gloria al Padre ubbidendo fino alla morte di croce, la massima gloria possibile. Qual è la massima gloria possibile che si possa dare a Dio? È fare quello che dice Lui, come vuole Lui, fino in fondo, senza se e senza ma. Al tempo stesso la croce stessa, quindi quella morte ignominiosa, è il luogo dove la gloria di Dio, che coincide con l'amore, risplende al massimo grado. Cioè Dio ti mostra la sua gloria perché ti fa vedere che più di come ti ha amato in Cristo crocifisso non potrebbe amarti. C'è anche poi la gloria come noi la intendiamo comunemente. Vedremo che nella preghiera da Dio, nel capitolo 17, Gesù comincia a dire: Padre, glorificami con quella gloria. Dice: io ti ho glorificato sulla terra, ora tu glorificami con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Quindi io adesso mostrerò la gloria del nostro amore, mi annienterò, mi consegnerò nelle mani dei peccatori. La tua risposta a questo sarà glorificarmi nella risurrezione. Però prima della gloria come noi la intendiamo, quindi la gloria del risorto, la gloria in cui rifugia la pienezza della divinità, si passa per la gloria dell'amore senza limiti. Cioè, perché ora il figlio dell'uomo è stato, ora è stato glorificato? Cioè, perché io sono stato capace di amare Giuda fino alla fine, a un viscido, a una serpa, un inconvertibile, a una persona spregevole come lui. Fino all'ultimo ho cercato delicatamente di amarlo con gesti affettuosi e di difenderlo davanti a tutti, di impedire che se qualcuno avesse saputo che Giuda l'avrebbero sicuramente ammazzato, senza nessun dubbio, d'accordo? Sarebbe stato sicuramente un omicidio, senza dubbio, no? Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. E vedete, figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, lo dico anche a voi, dove vado io voi non potete venire. Per ora vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amate gli uni gli altri. La prima volta che compare questo comandamento nuovo è in questo contesto e Gesù l'ha appena messo in pratica. Cioè, come io vi ho amati, che significa? Sei capace di amare un verme, un viscido, uno che ti pugnala le spalle, uno che ti sta vicino e poi ti complotta dietro, ti vende, ti svende, d'accordo? Ti accoltella, d'accordo? Nel segreto, nel nascondimento, senza che tu il tradimento è questo qui. Dovete amare così. E questo diventerà il distintivo. Solo se tu sei capace di amare così, potrai fregiarti del titolo onorifico dell'essere mio discepolo. Poi qui ci sono degli slanci di Pietro, anche qui, vedete, vi invito a vedere queste cose da un certo punto di vista, no? Pietro stava davanti a Gesù, lui ci credeva che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio vivente, stava primo, gli ha detto, è diventato il Papa per questo, però ancora non ha tratto bene tutte quante le conseguenze, perché se Gesù dice, dove vado io, voi non potete venire, dove vado io non potete venire, lui dice no io vengo. Cioè lui non si, lo ha fatto per amore chiaramente, perché non si rende conto, ma capite cosa sta dicendo indirettamente? Sta dicendo: ma che dici, ma che ne sai tu, ma dove ti faccio vedere io dove vengo? Cioè capite, non si può dire che sente queste cose qua, non si possono dire queste cose al Padre Eterno. Ecco, ripeto, Pietro tutto gli è perdonato perché agiva evidentemente per amore, però io avrei detto molto di peggio di Pietro, no? Però dobbiamo fare attenzione che se Dio dice una cosa è quella, quindi noi dobbiamo stare sempre in atteggiamento ricettivo, no? Perché non posso seguirti ora, darò la tua vita per me, darò la mia vita per te, e sappiamo tutti quanti come è andata a finire, no? Che è stato, mi sa che è stato proprio Rita, sapete che c'è, che mi ha ricordato una tradizione che avevo dimenticato, non ha mai servito antico, chi l'ha vista qualche volta, adesso è stato tolto, c'è un paramento in più rispetto a quelli che si usano adesso, che è quello che si chiama il manipolo, che pende dal braccio sinistro del sacerdote. Quello è un parametro che indica la penitenza che deve fare il sacerdote per le anime che gli sono affidate. Infatti la preghiera che si recita quando si mette il manipolo è proprio espressione di questo spirito penitenziale, no? Manipulum fletus et doloris, il manipolo del pianto e del dolore, no? Quindi, e la tradizione, forse una leggenda, non si sa, dice che l'origine di quell'indumento era che San Pietro, tutte le volte che celebrava la messa, ricordandosi del rinnegamento, piangeva, e quindi gli misero questa cosa alla, perché così poteva asciugarsi le lacrime copiose che versava durante la celebrazione, perché se l'ha dimenticata più questa cosa. Ecco, ha dovuto passare per questa terribile terribile sofferenza, insomma, no? Ecco, con il primo capitolo del versetto 14 comincia il lungo discorso di addio. Switchiamo un attimo, così ce lo introduciamo. Mi raccomando, ricordiamo che in questo contesto compare per la prima volta il comandamento nuovo, perché poi comparirà ancora in un altro contesto. Dobbiamo poi ricordare il raccordo. Allora, nel capitolo 14 comincia il lungo discorso di addio. Sono i capitoli 14 e 17. Li introduciamo e li presento, poi andiamo a leggere i dettagli e a commentare. Il capitolo 14 comincia con un invito a non sia turbato il vostro cuore. Questo è il momento, insomma, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Quando arrivano i guai, o quando stiamo per entrare nella prova, nella tentazione, o che ci stiamo dentro, la prima cosa che Gesù dice è non sia turbato il vostro cuore. Poi ne aggiunge un'altra: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Cioè, anche questa è una cosa che non ce la ripetiamo mai abbastanza, io anche me la devo ripetere in continuazione, perché la vita poi tende sempre a ritrascinarsi, a risucchiarci nel basso. Tutta la tragedia che stava accadendo nel Vangelo di San Giovanni, questo è proprio un messaggio chiarissimo, l'abbiamo visto. Continuazione. È chiaro che non è, secondo il nostro modo di pensare, non è che Dio intenzionalmente volesse una cosa di questo genere. Tutto quello che è successo era motivato dalla necessità della redenzione dell'uomo, che però per essere compiuta in maniera perfettissima, perché Dio le cose o le fa perfettissime o non le fa, doveva passare attraverso tutto questo mare di dolore fin nei minimi dettagli. Cioè, noi dobbiamo capire questa cosa qua, che non ci interessa per lo nostro, perché non siamo come Dio. Cioè, nessuno deve dire, ma che Dio voleva che Giuda tradisse Gesù? Cioè, Giuda ha fatto bene a tradirlo? Questa sarebbe una bestemmia. Però al tempo stesso Dio voleva che Gesù subisse quella cosa? Sì. A noi ci sembra contraddittorio, ma non è contraddittorio. Questo lo dobbiamo mettere in testa. Quindi, io su tutto quello che siete in giro adesso, Padre Pio diceva negli anni 60, non potevate nascere in un secolo peggiore. Fortuna che si è morto nel 68, perché se campava adesso, cioè, perché io credo che almeno la prima parte del 21esimo sta ampiamente superando il 20esimo, e stiamo proprio avanti, come si dice oggi, no? Cioè, è allora che dobbiamo dire, la rivoltella e sparasse. Noi non sappiamo perché, non sappiamo come, né sappiamo quanto durerà e quando finiranno tante cose. Quello che ci deve guidare è che tutto questo, nonostante che Dio non voglia con una volontà intenzionale che si compia tutto il male da cui siamo sommersi come una montagna di letame che sembra che ci soffoca, d'accordo? Però tutto questo lo sta permettendo e viene permesso esattamente nei modi e nei termini in cui lui lo fa, perché tutto questo serve, concorre Questo è un grandissimo mistero. Mi ricordo, quando leggevo gli scritti di Sant'Alfonso, alcuni santi hanno approfondito questa cosa qua, dicevano, sta attento che se qualcuno demanda a quel paese, Dio chiederà conto a quello che ti ha mandato a quel paese e non gli dirà bravo. Se sei pente, se va al purgatorio. Se non sei pente, a quello che Gesù dice nel Vangelo, che se lui dice pazzo, al prossimo te va alla Genna, chi lo sa, insomma. Lasciamo che decida lui. Però sta attento. Tu sei mandato a quel paese, il nostro Signore vuole che tu umilmente te prendi la mandata a quel paese, gliela offri con pazienza e la sopporti con amore. Questo è, cioè, questo è quello che si evince dal Vangelo e questo è quello che i santi hanno sempre insegnato. E questo è quello che appare evidentissimo. Cosa ha fatto Gesù? Cioè, voi immaginate, insomma, cioè, l'inerme per antonomasia, noi non ci rendiamo conto, cioè, Gesù si è fatto fare di tutto. Nei Vangeli c'è scritto qualcosa, c'è scritto, sapete che il Vangelo è sempre scritto l'essenziale. Guardate che io non ho letto tante, cioè tante persone, non so come hanno fatto a resistere, hanno avuto da Gesù, chiamiamolo il dono, non so se è un dono, se è una croce, di vedere la passione. Alcuni hanno raccontato dei particolari, per esempio quello che racconta Luisa Piccarreta, che a un certo punto Gesù gli hanno sputato in bocca, non è, lo racconta anche Teresa Neumann nelle visioni sue. Quindi io ne ho lette tantissime. Cioè, il Vangelo certamente l'essenziale è quello, ma poi i dettagli particolari, se uno li vedesse, un'altra mi pare che è Cecilia Bari, cioè che quando Gesù è stato in carcere la notte si sono messi a giocare, lo hanno completamente ricoperto di sputi, cioè dalla testa ai piedi era ricoperto di bava fetida, cioè, capito? Cioè, ma è una cosa allucinante. Lui non ha mosso un cibo, si è fatto fare tutto, non hanno proprio tutto. Cioè, bisogna pensarci a queste cose qui, è una cosa. Cioè, chi è capace a fare una cosa del genere? Questo è quello che voglio dire adesso. Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Cioè, tutto questo era già contenuto nella lavanda dei piedi, cioè più in basso di così. Sapete che si dice tra noi, no? E che ti fai mettere i piedi in testa? Allora, quando Gesù lavava i piedi a questi, voi sapete che loro non stavano seduti come stiamo seduti noi, eh? Lo sapete questo qui, cioè gli ebrei avevano nei banchetti le stesse impalcature che c'erano i romani, non c'avevano le sedie, c'avevano il triclinium erano i sedili lettucci, cioè. Quindi quando tu dovevi andare ai piedi, ti dovevi inginocchiare, e perché il triclinium stava più o meno all'altezza di questo tavolo, e tu da sotto, capito? Cioè ti metti proprio sotto i piedi. Cioè, noi seguiamo questo maestro, capite? Cioè, quindi io non è che, cioè, queste cose sconvolgono a me per primo, insomma, mi chiamano in causa, mi stimolano a conversione, però, cioè, ma che vogliamo fare? Chi si mette a cacompetto, si trova davanti al Signore e dice, ma io non ero a quel paese quello perché mi ha fatto arrabbiare. È carino, è comprensibile, ma non è esattamente quello che ho fatto io, di nostro Signore, insomma, no? Allora, quindi, non sia turbato il vostro cuore, questo è proprio il leitmotiv con cui comincia, e non sia turbato il vostro cuore è la prima cosa. L'ultima cosa, alla fine del capitolo 17, vi ho detto queste cose, recito a memoria, fate un atto di fede, ma tanto dopo lo troveremo. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Abbiate pace in me, non sia turbato il vostro cuore. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Detto questo, escono e c'è Getsemane e comincia la passione. Quindi tutto il discorso di addio è circoscritto tra queste due frasi. Non sia turbato il vostro cuore, vi ho detto tutto questo perché abbiate pace in me. Tutto quello che Gesù dice dopo è tutto finalizzato alle ultime istruzioni a farvi vivere tutto quello che avrebbero dovuto vivere con calma, nella fedeltà. Non avrebbero dovuto scappare tutti quanti agli apostoli, perché tutto questo Gesù lo stava dicendo per, però, questo è un altro grande mistero. Perché noi umanamente diciamo, io facciamo stasera un incontro un po' confidenziale, io dico sempre al Signore, dico, senti un attimo, Ma tu che ce le dici a fare tante cose, che tanto lo sai benissimo, che da un'orecchia c'entra non da quell'altra, che gli ha fatto tutto il discorso, questi escono, San Pietro tira fuori il coltello e taglia l'orecchia a Marco, da altri scappano tutti. Dico, tu dai un'ora di fatica, capito? Che la fatta a fa? Al Getsemane si porta quei tre e dormono tutti e tre, gliel'ha detto, dice guardate, guardate ragazzi, fate i bravi, pregate, preparate, adesso arrivano i guai. Da preti poi uno un pochino lo capisce poco, perché un prete non è che soffre quello che ha fatto Gesù. Però delle volte viene e si dice, ma io che parlo a fare? A chi parlo? Non ti serviva nessuno, capito? Cioè, ti viene un po', capito? Perché effettivamente. Allora, andiamo a vedere un pochino questi capitoli. Allora, dopo non sia turbato il vostro cuore, sono la via, la verità, la vita e tutto quello che ne segue. La fede e le opere dei discepoli di Gesù. Poi, solo chi osserva i comandamenti di Gesù lo ama davvero, l'amore di Gesù al Padre. E poi le cinque attività dello Spirito Santo. E qui una l'abbiamo vista la messa di questa sera. Poi andiamo a vedere. Allora, uno, il Consolatore. E lo spirito di verità che rimane con noi per sempre. Prima attività, rimanere con noi per sempre. La seconda, quello che ci insegna ogni cosa e ci ricorda tutto quello che Gesù ha detto. Ancora, qui dobbiamo switchare al capitolo quindicesimo, perché però è importante che Gesù quando parla della venuta dello Spirito Santo, capite perché? No? Lui se ne sta, lui dice, io andrò via. Adesso c'è la passione, la morte, la risurrezione, dopodiché c'è 40 giorni, dopodiché comincia il tempo della Chiesa. Il tempo della Chiesa si svolge sotto la missione dello Spirito Santo. Allora, gli apostoli devono capire cos'è che lo Spirito Santo farà in loro e come li aiuterà a compiere la loro missione. D'accordo? Non ne parla soltanto nel capitolo 14, abbraccia anche il capitolo 15, per esempio, vi renderà testimonianza e anche voi vi renderete testimonianza. E il capitolo 16, quello che abbiamo sentito questa sera, che dimostra al mondo e dimostra la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, e infine guida a tutta la verità. Adesso switchiamo e ci andiamo a vedere il capitolo 14 e poi le nostre attività dello spirito, ce la dovremmo fare almeno a vedere queste cose. Allora, let's switch. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Le leggo a sezioni, quindi la prima è dall'1 all'11. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, sono molte dimore, se no vi avrei detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro credete per le opere stesse. Allora, ricordiamo bene, subito dopo non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Qui la fede di cui parla Gesù non è semplicemente la fede, la base della fede che è la conoscenza e quindi il fare nostro le verità soprannaturali, ma è la fede intesa come abbandono. Quindi, sta succedendo il finimondo. Voi questo finimondo dovete affrontarlo abbandonandovi in me. Io vi ho detto non turbatevi, state sereni, quindi ci sarà da soffrire, quindi preparatevi a soffrire, questo sì. E a prepararsi a soffrire ci si prepara pregando. Perché chi non prega, le prove che arrivano non le passa, non le supera. Voi capirete perché la Madonna la Fatima oggi ci ha fatto una testa con un senso buono. Pregate, pregate, pregate, pregate, pregate, perché chi nei momenti duri non fa il pieno della grazia non ce la può fare, non ce la fa, perché umanamente si crolla, non ci si fa a resistere. Ecco. Spiega il senso della sua partenza. Io vado a prepararvi un posto e poi, quando avrò preparato un posto, però di nuovo vi prenderò con me, perché dove sono io siete anche voi. Sapete, questo è uno dei progetti che si legge funerario, è uno dei miei preferiti, perché il senso di queste parole è questo. Io vado a prepararvi un posto, devo compiere la redenzione, aprire le porte del paradiso. Tornerò quando? Quando è che noi partiamo? Noi partiamo esattamente, a meno che non ci suicidiamo in qualche modo, questo è possibile, e c'è il suicidio diretto e c'è il suicidio indiretto. Se non ci suicidiamo, il termine della nostra vita, così come il nostro indizio, è deciso dalla volontà di Dio. Cioè, quando avremo compiuto fino all'ultimo istante tutto quello che dobbiamo compiere. Sapeste quante persone anziane, io sono, ho sempre portato la comunione agli anziani malati di persona, quindi ho perso il conto di quanti giri che ho fatto da quando ho preso. Però sapete quante persone dice: ma perché il Signore non mi si prende? Ma io mi sono stufato? Ma che ci sto a fare ancora qua? E io gli rispondo: dico, me ne si prende perché tu sta ancora qua. E che sto a fare? Non faccio niente la mattina e la sera. C'ho un sacco d'acciacchi, c'ho un sacco di dolori, ma sono stufato. Ecco, i dolori? E tu pensi che i dolori sia averci niente da fare nei confronti del nostro Signore? La gente pensa questo, pensa che se uno c'ha il dolore, e dico, come siamo diventati, Santo Stefano direbbe, pagani nel cuore e nella mente. Quello tu lo devi offrire, cioè quel dolore è sicuramente purgatorio e meno per te se lo offri bene. E l'apostolato della sofferenza, dicono i maestri di spirito, è l'apostolato più impegnativo e più nobilitante che il Signore dà ai suoi discepoli. La sofferenza di un cristiano non è che sono niente. Oggi sono tutti stati terrorizzati della sofferenza, perché non sanno dargli valore alla sofferenza. Cioè, le cose più importanti che noi facciamo agli occhi di Dio, io mostro a fare, sto facendo un incontro biblico, pensate che questa sia la cosa più importante del conto sacerdote. Questa è la terza cosa in ordine di importanza. La prima cosa del conto sacerdote è che il nostro Signore deve soffrire, la seconda cosa deve pregare, e la terza cosa deve fare questo. Terza, San José Maria Escrivá diceva terza virgola molto terza. Noi invece generalmente pensiamo che la terza sia la prima. E la prima vuol dire il 90% è il fare, forse l'8%, ma che c'è tanto, è il pregare, o il no. E la sofferenza serve quasi a niente, al massimo succede, già troppo se mi rassegno e metto a conto la rovescia che passi il più presto possibile. Questo però non è cristianesimo, questo qua. Questa è mentalità del mondo, questa. Non è cristianesimo. Ecco, vedete anche gli apostoli, questo è il tema, ormai lo conosciamo, no? Dice, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gesù lo sta dicendo, sto andando al Padre, d'accordo? Quindi, l'ironia giovannea che Gesù parla e gli apostoli stanno sempre che capiscono, no? E Gesù ha la famosa frase, Sant'Agostino, le cose bellissime che ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Cioè, anzitutto la vede la sequenza, quando Gesù parla non dice solo la vita, la via, la verità, oppure la verità, la vita e la via, cioè la via, la verità e la vita hanno una connessione, una conseguenza logica e pure ontologica. Cioè, la prima cosa è che bisogna passare attraverso di me, cioè io non posso essere un estraneo, un qualche cosa di cui si possa pensare che se ne può fare a meno. Cioè, come dice Gesù, è mediatore. Il mediatore è colui che sta in mezzo, cioè è lo strumento di connessione, cioè Dio abita in una realtà inaccessibile, noi siamo mortali, siamo esseri umani, non abbiamo la possibilità di accedere a Dio se qualcuno non ci mette in connessione, come si dice oggi, ci mette in connessione. È il nostro Signore, non se ne può fare a meno, perché se tu fai a meno di Lui, tu non entri in connessione né con Dio né hai accesso alla possibilità della salvezza. Quindi la prima cosa che Gesù è via. mediatore. La seconda cosa, lui è la verità. È e insegna la verità, quindi bisogna ascoltarlo. E la terza cosa è la vita. Cioè, la vita di Gesù, lui a noi ce la comunica, eh? Perché i sacramenti, molti di noi sono stati a messa, abbiamo fatto la comunione da poco. Cioè, Gesù non basta che tu, Gesù, lo usi come strumento di mediazione, e nemmeno soltanto che ascolti, già è tanto, la sua parola, i suoi insegnamenti, devi averlo dentro di te come vita. Vita, vita viva, eh? E questa è la prima sezione. Andiamo a vedere la seconda. In verità io vi dico, chi crede in me anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Attenzione, anche questo tema, quindi del chiedere le cose, vedete, nel nome del Figlio. Perché nel nome del Figlio? Perché è per Gesù che Dio benedice il mondo. Chiedere le cose nel nome di qualcuno vuol dire che io non chiedo una cosa a Dio direttamente, ho bisogno di un intermediario, di un qualcuno. Non so chi conosce di voi gli scritti di Santa Faustina Kowalska. Una volta lei vide una visione dove c'era il cielo e la terra, e tra il cielo e la terra c'era una croce immensa, d'accordo? Gigantesca, per cui se Dio voleva guardare la terra doveva per forza guardarla attraverso la croce. Dice, solo perché la guarda attraverso la croce che non la stermina la terra, perché se non fosse quello sono tutti morti. Allora, questo disco, quindi chiedere le cose nel suo nome, lo riprenderà sempre nel capitolo 17. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Un altro tema che riprende. Io vado, ma cominciate a chiedere nel mio nome. Sapete che la Chiesa questo l'ha messo in pratica. Se voi fate attenzione, tutte le preghiere liturgiche della Chiesa, fate attenzione quando il sacerdote celebra la messa, sono rivolte al Padre, e poi c'è sempre, che significa per il nostro Signore Gesù Cristo, oppure per Cristo nostro Signore. Non è una cosa detta tanto per dire. Cioè, io sto rivolgendo una preghiera dove mi rivolgo a Dio, al Padre ordinariamente, ma chiedo questa cosa per mezzo di Cristo. Non posso io rivolgermi a Dio così, senza il mediatore, senza ricorrere al mediatore che Dio stesso ha stabilito. Che Gesù è vero Dio, ma anche vero uomo. E Lui come uomo intercede per noi. Ecco, poi comincia la sezione dedicata all'amore, e la prima frase riguardante lo Spirito Santo. Allora, se mi amate osserverete i miei comandamenti. Vedete, io pregherò il Padre, il nostro mediatore, colui che intercede per noi, ed egli vi darà, attenzione, un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Paraclito o consolatore, però paraclito è la traduzione letterale, no? Paracaleo in greco significa colui che sta vicino. Paraclito era anche il nome con cui veniva designato l'avvocato, non so se voi siete mai stati in tribunale. L'avvocato si siede vicino al cliente, quindi ci penso io, d'accordo? Sono io che ti difendo, non ti preoccupare, ci sto io, stai tranquillo, d'accordo? Perché il processo è una cosa un pochino impegnativa. Perché un altro consolatore? Chi è il primo consolatore? Chi è il primo paraclito? Perché un altro? Perché il primo paraclito è Gesù. Fino a quando è stato Lui sulla terra? Lui, personalmente, attraverso di Lui, personalmente, Dio si deve immaginare. Insomma, voi, Gesù Cristo abitava corporalmente la pienezza della divinità. Insomma, se c'è Gesù vicino, c'è Dio vicino. E quando se ne va? Ti mando, attenzione, un altro consolatore. Attenzione, questo rimane con voi per sempre, non c'è una presenza limitata come la mia, no? Anche quando Gesù stava sulla terra, anche quando stava nei 3 anni che stavo con gli apostoli, sappiamo che la mattina se ne andava ore e ore e ore in preghiera. Quelle 2-3 ore gli apostoli non lo vedevano, d'accordo? Quando li mandavo in missione 2 a 2, gli apostoli non lo vedevano, quindi era una presenza legata alla sua umanità che era sia limitata, perché comunque sia, ma è anche limitata nel tempo, perché poi, come celebreremo domenica prossima, Gesù è asceso al cielo. E allora che facciamo? Lo Spirito Santo, a noi tutti quanti ci piacerebbe vedere Gesù, stare con lui, parlare con lui, no? Diciamoci la verità. Ma lo Spirito Santo è meglio, perché lo Spirito Santo ce l'hai sempre con te, se tu stai in grazia, ininterrottamente. Se tu impari la vita interiore e impari a stare in compagnia di questo celeste compagno, che ce l'abbiamo tutti quanti, purché stiamo in grazia di Dio, tu ce l'hai sempre. Non c'è bisogno di chi ti consola dall'esterno, di chi ti difende, di chi ti protegge, di chi ti dà dei buoni consigli. Anche qui io mi chiedo da sacerdote, se non ci stiamo noi, non ci stanno a testa degli altri, ma quanti cristiani sono, tra virgolette, spirituali in questo senso, quindi sono capaci di raccoglimento, sono capaci di stare in compagnia dello Spirito Santo, di ascoltarne le ispirazioni, di ascoltarne la voce, di raccapezzarci? Quando è che una cosa che mi frulla per la testa probabilmente viene dallo Spirito Santo? Ho fatto un ciclo di catechesi abbastanza recenti dove c'è una sezione che parla proprio del discernimento, degli spiriti. Tu faccia capire che una cosa me la sta ispirando il Paraclito, il Maestro interiore, che rimanga con voi per sempre. E che cosa fa lo Spirito? Dice: lo Spirito della verità, che il mondo non lo conosce, non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Attenzione, voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi adesso, perché Gesù era pieno dello Spirito Santo, pure lui. Cioè, non soltanto per il battesimo, Gesù è stato unto di Spirito Santo dal momento stesso dell'incarnazione. Lo Spirito Santo era presente nel Figlio, nella sua natura umana, al massimo grado possibile. Se la Madonna era piena di grazia, immaginate, no? Cioè, la grazia dell'unione con gli ipostati, che scrive San Tommaso d'Aquino, superava ampiamente la pienezza di grazia di Maria. Cioè, non, capito? Dice, voi già lo conoscete, perché stando io vicino a voi, lui è già stato vicino a voi, però tra poco sarà dentro di voi. Quindi, capite, Gesù sta già parlando della Pentecoste e di quello che sarebbe successo dopo. Il mondo non lo conosce, il mondo, lo Spirito Santo non lo conosce, lo conosce. E da che cosa lo capiamo? Perché non si conosce, sentiremo una bellissima seconda lettura, se ne esce qualche predica fatta bene, il giorno del Pentecoste di quest'anno. Perché la prima lettura, ho scritto la Maria ieri, la settimana del Padre mio, la prima lettura, come sempre, c'è il racconto della Pentecoste. Poi c'è una parte del Vangelo di Giovanni, dove San Giovanni, dove Gesù ne dice uno dei cinque dello Spirito Santo. E poi c'è la seconda lettura, dove San Paolo suona: abita lo Spirito in te, vediamo quali sono i frutti dello Spirito. Non c'è lo Spirito in te, tu farai le opere della carne. Vogliamo vedere quali sono: fornicazione, impurità, libertinaggio, orge, inimicizie, contese, invidie, gelosie, eccetera, eccetera. Guarda quello che sta in giro nel mondo, sta tranquillo che nel mondo lo Spirito Santo non c'è sta. Nel mondo non sa che cos'è lo Spirito Santo, d'accordo? Cioè, le cose che vediamo ordinariamente non c'hanno proprio niente di soprannaturale e di divino. Quindi questa è la prima cosa. Quindi il Consolatore, lo Spirito di verità, che rimane con noi per sempre, da dentro, e che prende all'interno il posto che Gesù aveva all'esterno. Cosa fa? Switchiamo al versetto 26. Questo. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, l'altra cosa che fa: lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora, qua abbiamo già una chiave di lettura importante. Lo Spirito Santo e Gesù Cristo parlano la stessa lingua, però noi non dobbiamo immaginare l'operazione dello Spirito Santo come una cosa magica, nel senso che ti infonde totalmente un qualche cosa che in te non c'è, senza che tu abbia fatto niente per averlo. Allora, se ti ricorda tutto ciò che Gesù ti ha detto, è perché noi ce lo possiamo dimenticare, però almeno lo dobbiamo conoscere. Quindi è chiaro che se uno il Vangelo non sa manco di stare a casa, ma se viene lo Spirito Santo, ma che ti ricordi? Ti può ricordare quello, l'ultima puntata della telenovela, non ti ricorda quello che ti ha detto Gesù. Allora, cioè, noi dobbiamo metterci qualche cosa su cui lo Spirito Santo adotta. Certo, mi insegnerà ogni cosa, qui parla del discernimento. Quante volte, cioè, e attenzione, questo è un altro tema fondamentale, questa è una cosa che ho ben interiorizzato in questi anni e che sto mettendo in pratica, perché anche qui dare consigli espliciti alle persone, a meno che non ci sia di mezzo il peccato, è peccato questa cosa, se è peccato io da prete devo dire guarda, secondo l'insegnamento di Gesù è peccato, e te lo spiego, poi tu vedi quello che devi fare. Ma sulle cose che, cioè, la nostra libertà non si esplica soltanto nella scelta tra il peccato e il non peccato, cioè questa si chiama il libero arbitrio, ma la nostra libertà si esplica anche, supponiamo che una cosa sia lecita, ma è bene che io la faccio, punto interrogativo, oppure vuole Dio che io la faccio, punto interrogativo, o che la faccio adesso, o che la faccio in questo modo. Molte cose a me da prete me pure chiedono, dico senti poi io non sono mica il Padre Eterno, a parte il fatto che il Padre Eterno non ti risponde come se ti parlasse con una telefonata, ma se anche volessi, io che ne so che cosa vuole Dio, insomma quello che vuole Dio da me più grosso quello che vuole Dio da te, cioè, capito? E chi ce ne insegna queste cose qua? Chi ce lo dà il discernimento? Noi ce lo possiamo avere il discernimento, perché lo Spirito, se Gesù dice vi ricorderà ogni cosa, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto, se vuol dire che se tu le cose le vuoi conoscere, le vuoi sapere, te le dirà. Quindi prima di fare scelte avventate, comincia a imparare, prega, e prega non è soltanto dire preghiere, prega vuol dire fai discernimento, mettili davanti al Signore, esponigli i tuoi problemi spiritualmente. Che faccio in questa situazione? L'ho già detto, da cosa si conosce lo Spirito Santo? Quali sono i frutti dello Spirito Santo? L'amore, la gioia e la pace. Soprattutto la numero 2 e il numero 3. Se tu su una cosa, una scelta che prendi, avverti una pace profonda, puoi seriamente presumere, la certezza no, che stai dentro la volontà di Dio. Se tu avverti, non si è turbato il vostro cuore, un minimo turba, non sei convinto di fare una cosa, c'è qualcosa che dice io non sono sicuro di questo, non lo devi fare. Se lo fai, lo fai a tuo rischio e pericolo. E questa è un'arte che si impara. La vita cristiana è questa, cioè non è che Gesù parla a bandera. Lo Spirito Santo non ci è stato dato mica per scherzo, al battesimo, alla cresima, e se stiamo in grazia, lo Spirito Santo dentro di noi ci sta. Solo che un conto è che ci sta, un conto è che io mi metto ad ascoltarlo. Cioè, facciamo un esempio proprio, Dio mi perdoni. Io ho la televisione dentro casa, la tengo sempre spenta, la televisione ci sta, come se ci stesse, la te accende, la devo, no? Perché la televisione svolga la sua funzione, ce l'ho, la te accende. La televisione più spetta sta meglio è, ma lo Spirito Santo più l'accendiamo meglio è, d'accordo? Se non l'accendi ci stanno come se non ci fosse. Terza cosa, switchiamo al capitolo 15 versetto 26. Allora, quando verrà il paraclito, io vi manderò dal Padre lo Spirito della verità che procede dal Padre, ancora lo Spirito della verità, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio. Che cosa significano queste cose? Numero uno, lo chiamo lo spirito di verità. Facciamo un po' di lezioni greche, vabbè, vi fidate? Sapete che in esegesi, allora, topneuma tes aletheias. Allora, ci sono due tipi di tes aletheias. Alessandro probabilmente è l'unico che capisce bene. È un genitivo, d'accordo? Topneuma è un nominativo, tes aletheias è un genitivo. Lo spirito, un genitivo, significa è l'equivalente tu è un tess è un articolo femminile, caso sempre genitivo, aletheias significa verità. Ci sono due genitivi in greco, si chiama genitivo soggettivo e genitivo oggettivo. Il genitivo soggettivo significa lo spirito di verità, cioè lo spirito che è verità, lui, cioè la verità è una cosa sua. Lo spirito della verità vuol dire lo spirito è verità, e questo è certamente presente, perché abbiamo altri passi del Nuovo Testamento dove si afferma esplicitamente che lo spirito del Signore è la verità. Quindi, attenzione, dove c'è lo Spirito Santo, la verità c'è sempre. Qualunque cosa che te frulli per la testa, che non è in linea con la verità, anche se tu dici, ma no, però forse sarebbe meglio, forse qua, cioè anche se fosse mossa dalle migliori intenzioni, stai tranquillo, però non viene da Dio. Le cose più belle, le cose più buone, le cose si possono fare tutte, purché non vadano mai contro la verità. Ma c'è anche un altro genitivo, il genitivo oggettivo, cioè non lo spirito che è la verità, ma lo spirito che ha la verità e che quindi ti dà la verità, ok? Quindi vuol dire che la sua presenza ti porta alla verità, e in questo senso Gesù ne parlerà più avanti, nella quinta, vi guiderà la verità tutta intera, approfondisce questo secondo aspetto. Allora, e in particolare cosa fa? Primo, dice rende testimonianza di me. San Paolo nelle sue lettere dice, nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Cito a memoria, Ecco perché per essere battezzati, cioè attenzione, dire Gesù Cristo è il Signore vuol dire che tu credi profondamente, veramente, questo lo soltanto Dio nel tuo cuore, senza nessun dubbio che quell'uomo, la cui esistenza storica è certa, è Dio, punto. Perché San Pietro è diventato il primo Papa? Che ha fatto? Chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio, e chi gli ha risposto Gesù? Ah, questo non te l'ha detto né la carne né il sangue. Oh, questo l'ha detto il Padre mio che nei cieli, il Padre mio, lo Spirito Santo, capite? La Santissima Trinità, ma tutti gli altri d'accordo. Quindi il Padre testimonia del Figlio, lo Spirito Santo testimonia del Figlio e viceversa, si testimoniano tutti e tre l'uno dell'altro, ok? Quindi rende testimonianza a Gesù e rende a sua volta testimoni di Gesù. Quanto siamo disposti a pagare la nostra fedeltà al Vangelo? Leggete degli atti dei martiri, io lo confesso, quando leggo certe storie, dico, io ce la farei a fare queste cose per te, Gesù mio. Io voglio tanto bene al Signore, ragazzi, la cresima, no? C'è stato un sacramento apposta, testimone di Cristo, questo significa, d'accordo? Voi immaginate, no? Immaginate oggi, no? Vabbè. Le cresime che si celebrano oggi, che vabbè. Altra cosa ancora, le ultime due e poi concludiamo. Switchiamo al capitolo 16, eccolo. Siamo i bravi, 16, 8, 11. La messa di oggi. Uno l'abbiamo già fatto, ve lo vediamo. Se quando sarà venuto dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, la giustizia e la giudizio. Riguardo al peccato perché non credo in me. Riguardo alla giustizia perché vado al Padre e non mi vede più. E riguardo al giudizio perché il principe di questo mondo è già condannato. Allora, riguardo al peccato ce lo siamo sentiti, vorrà approfondire, si risente l'omelia. Lo Spirito Santo convince dell'esistenza del male oggettivo. Il peccato esiste e non è arbitrio dell'uomo definire questo va bene e questo non va bene, ma il bene e il male sono delle cose oggettive che non possiamo tanto accogliere di conoscere. Il nostro mondo, lo Spirito Santo è stato e completamente estromesso, ha perso completamente il senso del peccato, proprio zero assoluto, e non soltanto nel mondo purtroppo distante. Io vi assicuro che tanti fedeli, sono parroco da 17 anni, non hanno la più pallida idea di cosa sia il peccato, te lo dico io, vedete, corto, l'ho potuto constatare innumerevoli volte. Quindi vivono a livello oggettivo, senza saperlo, in condizione di enorme colpa morale, ma non ce ne passa proprio manco per... Non è che dici, sai, non lo confessano perché si vergognano, non hanno paura. No, no, no, no, no, perché poi pensano stanno a fare niente. Quindi, il peccato oggettivo è il peccato soggettivo, quindi io sono peccatore e io riconosco i peccati che mi hanno fatto. Quando una persona si converte, lo dico io ho avuto la grazia di fare tante di quelle confessioni generali in vita mia che Gesù Rosa. Quando una persona si converte, la prima cosa che succede, ti scende lo Spirito Santo e ti rivedi tutta quanta la tua vita come della vita, no? È una sorta di giudizio particolare anticipato. E ti vengono a raccontare di tutto di più. Questo, si vede proprio questa operazione dello Spirito Santo, che dimostra la colpa del mondo riguardo al peccato. Lo deve fare lui perché non ci hanno creduto in Gesù. Gesù ha detto già da tante cose nel Vangelo, ma se qualcuno non ci crede, non l'ascolta, ci pensa poi lo Spirito Santo nel corso del tempo e della storia, attraverso le sue vie misteriose, a parlare nei cuori e a causare le conversioni. Poi, la giustizia. Vado al Padre e non mi vedrete più. La missione di Cristo termina. D'accordo? È finita. D'accordo? E non ci saranno altre venute di Cristo attento a quello che danno in giro. Prima della parusia. Gesù è venuto, ha compiuto la sua missione, tornerà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. E sto. E qua una bella notizia. Il principe di questo mondo è già condannato. Quindi è già stato vinto, certo, questo non ci può far staccare a croce là, perché adesso è condannato, ma sta a far pazzo adesso, eh. Adesso è la sua ora, purtroppo, è la sua ora che si sta a fare tante di più, mi viene nervoso, non mi viene nervoso perché poi non arrivava la soddisfazione. Ma se voi sapeste quante all'inferno, stanno dalla mattina alla sera con lo champagne, stanno a fare tante di quelle risate, ma proprio che se rotolano dopo poi battere i pugni prima davanti e poi dietro alla faccia nostra, proprio si stanno sbudellando. Finirà, perché poi quando la Madonna gli schiaccerà la testa, ride sempre bene, ma adesso allo stato attuale, proprio si stanno sbudellando a ride. Ecco. La consolazione è che c'è stato condannato. Quindi. Se il mondo va a sfascio, ricordate sempre, l'importante è che il nostro cuore non vada a sfascio, d'accordo? Altro è quello che accade fuori di noi, altro è quello che accade dentro di noi. E dinanzi a quello che accade dentro di noi non bisogna mai disperare, perché il principe di questo mondo è già stato condannato. L'unica cosa è che bisogna andare lontano da dentro di noi. Noi non abbiamo il potere di cambiare le cose nel mondo, possiamo farci poco, ma di tenerlo fuori dal nostro cuore sì, e questo dobbiamo fare. E infine, proprio l'ultimissimo, c'è una frase di passaggio, dice: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Questo vale a livello ecclesiale e a livello personale. La nostra crescita è graduale. Dio non ti dice tutto e subito. Quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità. Anche qui in greco, adesso la traduzione nuova è tutta la verità, la traduzione antica era la verità tutta intera, ma il termine top neumatese o de gesiumas ente aletheia pase, tutta la verità. Avete visto cosa dice il processo, no? Giuri dire la verità, solo la verità, tutta la verità, cioè il nostro Signore la verità ce la dice sempre, d'accordo? Non dice mai il falso, ma non sempre dice tutto. Questa è proprio l'arte anche cioè io anche, state tranquilli che tutto quello che si crede da me è sempre vero, ma non sempre è tutto, perché tutto molte volte non si può dire, oppure non è ora di dirlo, perché una cosa detta prima del tempo, anziché fare bene, fa male, e questo Dio non lo fa mai. Se tu le vuoi ascoltare la verità, piano piano te la dirà tutta, ma te la dirà quando è ora. Questo lo Spirito Santo lo fa con i singoli e lo fa con la Chiesa. Per esempio, chiudo, il dogma dell'Immacolata Concezione, cioè sapete, questo ministero lo Spirito Santo lo svolge attraverso il magistero straordinario e solenne della Chiesa. Nella rivelazione c'è già contenuta tutta nella sostanza la verità, ma non tutta è chiara, non tutta è esplicitata nei minimi dettagli. Nella Bibbia non c'è scritto che era una donna immacolata. Allora, quelle persone che non conoscono bene il Vangelo, non capiscono queste parole, dicono: ah, come si permette la Chiesa di dire che era una donna immacolata che nella Bibbia non c'è scritto? In forza di questo. Nella Bibbia non c'è scritto Perché nella mente di Dio, non sappiamo perché, prima dell'8 dicembre del 1854 non era ora di dire chiaramente al mondo intero, tra le verità rivelate da Dio c'è anche questa, che questa creatura è stata concepita unica tra tutte, miracolosamente, senza contrarre la macchia del peccato originale. Nella Bibbia questo c'è scritto in maniera molto velata e molto indiretta. Lo Spirito Santo, che ha mosso nel corso della storia anime e santi e dottori che hanno capito questa cosa, altri hanno capito il contrario per la verità, ha portato la Chiesa a maturare il giudizio fino a darlo in maniera definitiva. Quindi lo fa con i singoli, lo vogliono ascoltare, e lo fa nella Chiesa come popolo. Basta, ci fermiamo, perché per oggi possiamo finire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e in secolo e in secolo. Ti rendiamo grazie, Signore, per i tuoi benefici, perché vi verremo nei secoli dei secoli. Amen. Signore, ci conceda la sua pace e la vita eterna.